siamo di Ubi, quindi bisogna rispettarlo. Ah, mi stava chiamando Domenico a proposito sul 7 Alfa stamattina, che infatti l'abbiamo chiamato per fare le prove, c'è la reserva, è andato sul 7 Alfa 4, dico Domenico. Ma dove è il contrasanetto? Sì, il contrasanetto Giova di Mattor. No, Domenico già lo conosce, Natalino oramai. Natalino è entrato nel meccanismo. Uno dei diozieri, noi di Oschi. Ah, ma contrasanetto non c'è più niente, apparato non abbiamo. No, non c'è più niente. Forse buco qualcosa c'è nel camion, ma non entra mai perché viaggia di notte, capite? Ciao ragazzi, buonasera da Tony, passo. Avanti, chi è? Buonasera. Tony, buonasera Antonio. Ciao Tony, mi sentite con cordialità, dai, stazione Luffy Room, in compagnia di Natalino Alfa 1 e di Claudio Sparviero. Avanti di nuovo. Grande a tutti, buonasera Claudio, Natalino. Ripeti Claudio. Sì, ma qua è mezzo al QRM, io QRM di propagazione lo coprono. Ciao Tony, buonasera, ma non ti ho ben sentito perché ti sento in mezzo al QRM, vai Natalino. Sì, anch'io lo sento bassino qua. Ciao Tony, non so se mi ascolti che ho questo apparecchio della mutua, dai. Io vi sento ragazzi forte e chiaro, sono adesso di fronte ai carabinieri, però devo cambiare antenna, vorrei mettere l'antenna quella più lunga, di 90 cm, un metro, è vero, sto riscontrando anch'io che le segnalazioni, il segnale è molto molto basso. Io lo sento bene, la verità, Santiago Longo Radio 5, va bene qua. E adesso anch'io lo sento bene. Solo che deve essere c'ha di quelle antenne corte, allora secondo dove si abbassa parecchio sia la radio che il segnale. Sì, l'ho ordinata da Fusaro un metro e qualcosa con la calamita gigante. Guarda, se la vuoi un'antenna grande te la vendo io da 2 metri. 1,80 m, dai. La Turbo 2001, se ti interessa te la vendo io con la calamita, tanto in macchina non li bongo più. Non lo so più usare le macchine. Sai, con la calamita volentieri, dico tanto, no, perché volevo prendere una cosa semi-turbo, io la turbo adesso è un più piccola. Sì, la calamita è molto più grande perché usciamo dall'altra. Ce l'avevo, ma sostituito perché ho fatto un viaggio lungo e se l'ho rubata. Bianco, per me già. Allora, se ti interessa, la sto vendendo 50 euro con la calamita, con la base magnetica. Benissimo, benissimo. Allora ti contatto. Che avanti. Io adesso scendo dalla macchina, mi auguro un buon sabato a tutti, un saluto a tutti. Lui. Ciao Tino, ti ascolto forte e chiaro, Santiago 9V5, cambio. Vabbè dai, non mette molto, solo arriva anche di più, ma già va bene. Va bene Tino, io come ti arrivo? Bene, però non mi chiedo il segnale perché non lo vedo qua, la luce è spenta. No, non te lo chiedo Tino, interessante che mi ascolti, dai. Con la compagnia di Natalino, Claudio e l'altro amico che non mi ricordo come si chiama, che arriva bassino a loro, a me arriva bene, però a loro non arriva tanto forte, dai. Ciao Tino! Ciao Natà, ti ascolto basso, ma già ti ascolto, Non posso pretendere con 4 watt dove vuoi andare, è un miracolo che mi senti. Andale dai, che devo picciare il fuoco, c'è freddo qua. Ciao, ci sentiamo, buona serata a tutti. Cappa, se ti interessa con l'antenna fammelo sapere. A me, non mi interessa oggi. No, quell'amico, questo se mi sembra che lui, scusa. Avanti, ciao, sto chiedendo. Contatto nei prossimi giorni via radio. Ciao Dino. L'ho copiato bene, puoi ripetere passo. Boh, non ho copiato l'amico adesso, avanti di nuovo se mi ascolti. Sì, ti sento forte e chiaro, confermo per l'antenna e in settimana ti contatto via radio, Cami. La sto arrivando basso. Se ti avvicini, io adesso sono in zona Via Valdetta, quindi ti ascolto. Io sono in zona quasi Piazza Leseni, adesso forse meglio. No, non ti ascolto. Cosa c'hai? Che antenna c'hai? 60 centimetri. Quella che c'hai, la mini turbo c'hai? Sì, su calamita. Adesso mi conto meglio, ti dicevo, ti contatto in settimana via radio per l'antenna turbo grande. Gatta, ho capito, dai. Va bene, riprendi a chi tocca, avanti Tino, oppure no, Claudio c'è, avanti Claudio. Claudio non riprende, Tino avanti, dove sei? Tino ha chiuso. a Pazzona è al mare, vicino a Trentino. Quindi chi siamo rimasti io, tu e le rose. Adesso non mi ricordo come si chiama l'altro amico, che non ricordo. Tuni si chiama. Tuni, attento, Tuni, Tuni, ci sei? Molto in Libia, avanti Natali. Cata, Cata, avevo visto sulla fotografia questa bella antenna piccolina di banda con la base magnetica, me l'ho fatta arrivare. Se tu vedi la base magnetica devo andare lì. Piccola, piccola, adesso la apro e guardo a vedere se come l'attacco, perché se lo posso recuperare me la faccio io una bella base magnetica, perché ho quella da 1,5 metri bibanda io, se non va bene quella piccola si bongurastra. Sì, ho capito, vabbè. Quella che c'è è troppo pesante, mi si è staccata attorno ad Alghero, grazie alla Giubilea d'Ora, lassù. A me mi serve così, perché puoi attaccare anche quella HF con quell'attacco lì. E quindi con una base magnetica fai tutto. Io già ce l'ho grande la base magnetica, ma c'è attaccata la PLC 800, a meno che non la gavo, vista. La dai a me la PLC 800, tanto non la uso. Tu e chi ne sta più usando in macchina? Io me l'avevo fatta proprio per usarla in macchina, ma si va sempre la macchina lontano, non mi occupi più gli anni, non sto uscendo, capito? Sempre sarrando in casa in prigione, insomma. Non so, Natale, cosa devi fare? Cosa devi fare? Io sono lo stesso, ma sto uscendo niente, sto uscendo solo a fare la spesa, buh. Io infatti, io esco quando devo fare qualcosa di importante e basta, se no... uscivo la mattina pure a portare il cane, a manco visto dove si va, chi guarda, si tira e mi rompi di cazzo, i rugani, ma c'è, non va come andava l'altro non c'era bisogno manco di guinzaglio e stava sempre a fianco a me, attaccato brutto. Era cosa c'è l'audacia da lì per andare a fare la visita all'ospedale, perché non ce la facevo dei dolori che ci avevo. Ho guidato, ma a trattare giù il gioco come che gioco a rivido. Sì, me lo posso immaginare. E per non spendere i soldi per il tassi che mi pare regalati. Infatti. Oh yeah. Pure a noi. Ci siamo ridotti così. Ah. Che ha pagato, a me dai, se venuta a trovarmi, piccolino, non ti posso portare, vieni qua, vieni, vieni, vieni, mi sta tutto leccando, poverino, se vieni qua lo becchi. Infatti qui lui se ne accorge che non stai bene, il cane ne soffre. Lo so, se ne accorgono sì. Dice, Zabizza, ridotto, Zabizza. Adesso è coricato in terra, a fianco a me. Sta vicino a me, sta. Lo sta acchiappando, Elena, perché praticamente scappa. Allora, quando tu vai a prenderlo con guinzaglio se ne fugge. L'ha presa come un gioco, capito? Se ne scappa tu devi andare a presso a lui, che si è girato tutto lo stavo. La voglio vedere, Pissigendi. Ma adesso l'ha preso perché è venuto da me in cameretta e ho chiuso lo sportello, ho messo lo sportello davanti, l'ha abbigliato baghissimo, se no devi sapere io di girarmi a biudo. Questo quando vado a mettergli la pettorina e che non la vuole, capito? Adesso lo portoggio si stava lamentando. Casino. Mattino sicuro che ha chiuso. Eia. Non l'ho sentito io che ha chiuso. Deve essere apparato sotto di me. Evidentemente sì. Io l'ho sentito che ha chiuso, l'ho anche salutato. Ho messo un distratto, forse quello sta prendendo il cane, Andale. Ce l'hai ancora Tuni, Tuni, Tuni, Tuni, ci sei? Tuni, sei andato via. Flavio starà smuffendo la pizza. Dovevo andare ancora a prenderla. Ah no, e allora decido di andare a pigliarla. Sì. No, io... stasera fa la carne come si chiama, fetti di pollo con i capperi buoni, così quelli pomodorini. Ho capito. Cazzo, gli fate un più spezzatino compattato, compattate. Ieri, ma una bomba è uscito già. E adesso l'ho fatto anche io, perché è l'ultimo tempo, come ti lo dico a mano, lo posso io, Buono, buono. Buono, sì. Oggi venite e fai giuro. No, io la stagione ho fatto l'affogato, il cavolo affogato, con le olive e cose. Suffugato si chiama. E a suffugato si chiama, a suffugato. La cotoelle la però dai, l'ho mangiato io più che altro. Mi piace pure a me questo. Eh? E piace pure a me quello. Quello è buono con le olive, ma lo so fare anche io, non è che... Ma il giorno l'ha cucinato bene, dai, se mi stavo sbagliando, infatti le braccole, che era io che l'ho cotto. Già in gusa, oi? Si ridibigli di me, ti aghizza. No, era buono comunque, è buono, con le olive è fatto bene. Cioè è buono, così. Mi piace anche bollito il cavolo, mi ha fatto insalata. E se no a me? Le bietole mi piacciono, fatte in salata, adesso sono un po' che non è facile di bietole. Prima le compravo 4-5 mazzi, che si diceva, tutte queste bietole si fanno, io mangiavo solo le bietole e non mangiavo altro, facevo dieta di bietole. E anche io le mangiavo, adesso qui da un vedo poco che non riporto. Sai perché? Perché tu, il trucco è questo, se tu mangi molte bietole non ti fanno salire la glicemia, in più ti riempiono, poi mangi una cazzatina e sei già pieno, meno una frutta e non mangi altro. Sì, già lo so. Vuol dire, quando io mangio sia le uova sia le verdure non mi sale mai la glicemia, ce la so per 115-120. E così già va bene. Ma si mangia un garri, oi. Ora pizza. La pizza poi a 360, cioè che il giorno dopo l'ho volevo vista la glicemia, almeno ne misura. A chi già su chi mi lo dice? La pizza me la fa fare a me, un bel. Non lo so a te, però a me me la fa già fare un bel. E anche con sotto casa fanno anche le pizzette al taglio, adesso al giovedì, poi venerdì e sabato non le fanno, perché hanno un bel di ordini di pizze grandi, quindi quelle al taglio non le fanno, ma gli altri giorni le fanno e sono anche un bel buone, sono belle croccanti. Se le vediamo così e via. Ecco. E io chiedo quelle piccoline, le baby, da cosa va? Chiamo a... A Salvedia me le portano qua, quelle quattro stagioni baby però, non grandi, e vanno bene. Io manna non ve la posso manca magna mira, penso. Ma io già ce la faccio, ti porto un posto io, vedrai che ti mangi pizza e ti le cerchi in basso. E me lo posso immaginare. E già lo sai indietro, dove me lo sempre io. Ma San Gavino. E a lui. In chi raggio una canna di maniamo una vedda corsara. Ce n'è un'altra buona, un'altra lì. Si chiama la piracca. È fatta con il pesce spada. Sì, ma mi piace più la corsara. La corsara, dopo che ti mangi i frutti di mare, non è più che la mangia la pizza, la canti finne. È una montagna, esatto, era me cazzo, perché era buona. Ehi, tutta me la mangiavo io la corsara, mi rammento. Io l'ho mangiata anche da poco a San Gavino. Sono sceso con un amico e ce l'abbiamo mangiata. E ultimamente proprio, ti parlo di una settimana fa, dai. Siamo andati e ho preso quella. Lui ha preso altro, lui ha preso una piccante, boh, non so, quattro stagioni però con l'olio santo. Ma santo però, se ripongo qui sono mi sapendo mi sto perché una ghetta che sono a bruciori. No, io quella lì no. Poi gli ha detto, guarda che sei già l'olio piccante, ne ha voluto ancora, se ne ha messo ancora, cazzo quanti si va, buh. Vabbè, comunque io ho mangiato quella corsara e non me ne sono pentito. Cambiare ho paura, perché se cambio magari quell'altra non mi biazzi e ci ho sprecato i soldi, invece quella lì so che mi biazzi. Sì, infatti. E poi no, che sono cubiglienti sempre a quattro stagioni, io quella baby. Ma la vita anda a San Gabino, mi piglio una corsa, la mi vuoi tappire. Sì, ma se anda. È facile. Cacche nutti, usemo e andemo. Io ti ripeto, sono andato da poco. Sono andato anche al Gran a mangiare la pizza, non vado più. Adesso una pizza, abbiamo preso due pizze col tonno e cipolle, una birra, ci è venuto 15 euro le pizze, sembra un raio, poi la birra, non so quanto ci ho pagato di birra, un conto allucinante. Alghero dice bidei, Gianni. Che ha pagato, non vado la lì da mangiare la pizza, lo fanno nella manco buona, ma la cingomma. Figurati. Sembrava cingomma, nata lì. Sì, me lo posso immaginare. Questo non è buono, eh. Siamo stati più di un'ora aspettando la pizza. Quando si era navigata, ma se mi aiuta si era arrivata Magaburu, beh. Oh yeah, siamo andati bene. Ma è di Alghero però, cazzo. lo so. Alghero, c'è poco da fare. Ho già mangiato altre volte, siamo andati in quel ristorante che c'è di fronte alla torre, lì abbiamo mangiato bene, fritti di mare, tutto quanto, però ci sono conti allucinanti. In chi vi piace? C'è bideggia nei gurgonti, io lo so. Alghero, Accentino, pure vai, mi cazzo ti vado nei nuovi. E poi se di mare sono, ne approfittano, capito? E allora? Ma io vado a San Gavino e mi la mangio in chibi, ero manco sono così curioso. Ma c'è la gente che c'era a San Gavino il giorno che sono andato io, lui, tu non hai idea, era pieno dritto, vura, c'è la gente aspettando, lui, c'è tutto pieno, tutto pieno. E in chibi, cazzo, di non stare attento, devi pure la città, a che vanno tutti i tavoli occupati, è sempre pieno lì. Io devo prenotare quando vado. Infatti l'unico. Prenotare così almeno che c'è il tavolo. Cappa, infatti. Io vabbè, poi c'ho un trattamento particolare, lì mi conoscono tutto quanto. Quando vado con gente so di essere trattato bene. Infatti, veramente, noi andavamo sempre lì. Andavamo. A chi io dalla voce mi ha fatto male, chissà di Piazza Garibaldi, non faccio più posto bene, sempre a San Gabbino. Anche a me ha fatto male, ma dipendeva dai frutti di mare secondo me. C'era qualche cosa variata, si è fatto un mal di pancia a mia digiola e siamo andati per vederlo in complesso, ce ne siamo dovuti tornare a casa perché stavamo male tutti e due. Piazza Garibaldi più non ci ho messo più piede, evidentemente non erano freschi o c'era qualche cosa variata. Anche a me mi ha fatto visto il travaglio. Ci andavo sempre in Piazza Garibaldi, non ho visto più, non faccio più questo bivio, da una volta mi ha fatto male. Comunque a te, la mazza si goza, mi ha fatto male, allora dalla volta non ci ho messo più piedi lì. Sempre a San Gavino, almeno sono sicuro dove vado. E tu il pesce lo compra fresco, capito? Lo compra fresco perché io conosco chi c'è, chi ci lavora, tutto quanto. Sempre fresco il pesce, non vende, cioè vende tutto quello che compra vende, a volte non gli basta nemmeno. Sì, infatti, è sempre pieno anche c'è pizzeria, che travaglia mi vede. Vabbè, comunque, io lì mi servo, adesso c'è un'altra pizzeria, sto a Porto Torres che sa, se ne si chiama La Ruccia, e lì ci voglio andare perché quella è una mia collega e il marito è un bel bravo come pizzaiolo. E dov'è a Sassari questa Ruccia? Allora, La Ruccia, quella che c'è a Porto Torres, sono due le pizzerie, una è dopo la piazzetta, e visto dopo il bingo, c'è una traversa sulla destra, si va in fondo, c'è una scalinata, si sale e lì c'è La Ruccia. E l'altra è all'entrata di Porto Torres, è proprio di fronte al rifornitore, il primo rifornitore che tu vi entra. Ne ho capito. No, non sono riuscito ancora a prendere l'appuntamento perché ogni volta che telefono è sempre pieno. Me lo posso immaginare. Vuol dire che travaglia nei furughissi. È capace di dire, io una volta sono andato a quella di Sassari, era un bel buono, oltretutto ci hanno dato, prima ci hanno fatto degli stuzzichini con la pasta della pizza, buoni, e poi finita la pizza ci hanno fatto la pizza con la Nutella, ci hanno fatto un dolce con la pizza con la Nutella. Ah, io non ne posso mangiare di queste cose. Io gli ho detto, ma io non ne ho ordinato questa cosa, no, questa è stata la casa. Perché? Forse c'era qualcuno sotto già. Va avanti che vuole entrare. Ai, mi è sembrato che c'è qualcuno a dolori. Ah, ha già detto, E cosa ti fa male? Però se ne fanno male, ragazzi, il water cazzo. Ho mangiato proprio un traccio di pizza, faccio fuori una sigaretta, poi mi sdraio al divano, esci la biglia in gomma e posso amare. Quando uno di va fai frutta, se uno non fa denuda non si tracca, ma se uno ha zandelle e torrenti si tracca, non ti preoccupare. Non mi reggono più le ginocchia, c'ho sto cazzo di artrite, non c'è mai niente, sono sempre stanco, fanno le gambe anche a me, soprattutto le ginocchia, i polsi, i gomiti, e poi c'è sempre questa lombosciatalgia che lui mi chiama, ho mangiato, adesso aspetto un'oretta, verso le 10 mi prendo la solita bustina oramai, senza di quella non vado più avanti. A me cosa dicendo, ho consumato praticamente Voltaro nei muscoli di iniezioni, ho consumato una scatola di occhi e ne sto cominciando un'altra. Voltaro nei muscoli l'ho fatto l'anno scorso, ma non ne faccio più. Queste bustine, il Nimedex si chiama, molto buona, però non ne posso approfittare, sto prendo la protezione perché è un bel forte ed è esclusivamente per queste cose che ho abituato al topico. Andiamo via, andiamo. Tutto è nato lì, attacco là. Ehi, e andiamo via proprio. Tutti per rilassarti, cazzo, ma io ero un toro, cazzo. Io ho 60 anni, ero un toro, cazzo, da due anni a questa parte. Quando sono andato via dal lavoro, cazzo, mi sono disintegrato, non ci ho preso in balloccia. Forse non me ne accorgevo, lavorando, in movimento, sai, 6, 7, 8, 10 ore al giorno, sempre andando, dormendo, vivendo. E mi sono accorto che quando mi sono fermato sono iniziati questi cazzi dolori, sono usciti tutti assieme. E infatti mi è arrivata a puccia, una voce che uno si vede ma è fottito. No, male mio, cioè, ci sono giornate, non riesco a muovermi. Mi siedo in veranda, mi guardo le cose da fare, come faccio? Poi adesso con l'acqua sto uscendo di nuovo tutta l'erba in giro la casa, e quello che ho fatto. Che palle, cazzo, mamma mia, grazie a Dio, va indietro. Aspetta che rispondo al telefono. Oggi ho scritto di lavare una tenda, sono andata a smontarla a casa, è andata lì, come se salite sulla sedia, lui, la gamba. Qua per poco mi cede. E io, siccome me ne era accesa una sbarra dove tenevo appesa la roba all'armadio, no? Sono andato a rimetterla a posto e sono salito sulla scala perché è un bel alto, no? Mi viene questo dolore alla gamba e qua in pancia. Ui, ui, ui. E siamo tutti arrugginiti. Non te ne sei accorto che cambia papà? Eia, se me l'hai detto che stavi cambiando. Io purtroppo da cambiare non ne ho. Cazzo gaggio giù, in basta tutti una. Cappa. Ehi, vabbè, già ce l'hai. Non ce l'hai da cambiare, ma l'apparato ce l'ha. Non ne ho. Non c'ho più nulla qua, c'ho il Superstar 3009 e quel ricevitorino piccolino che sai. Basta, non va giù, dai, lo sa. Adesso il Superstar stai usando. Allora, no, sto usando sempre quello, già si sente dal bipita. Sono arrivato basso da coso, da Tino, perché c'ho 4 watt, questo qui è normale, il Superstar, non lo posso toccare se non perdo l'omologazione. E vale, gli puoi mettere il microfono amplificato, quello che abbiamo comprato io e Marco Condo. E poi, vabbè, il buono 747 ha... Sì, canna, 747. E poi il microfono amplificato ce l'ho MB4 sto usando. Ah. È a metà, non è a manetta, però c'ho quello. Ah, se non c'è l'amplificatore, sembra normale. Va. Aspetta qua. Ah, vai a manetta, si intendi? Adesso sì. Ah, già va bene a metà, là, così. Lascia la metà, già è chiara la radio, è presente, tutto quello che vuoi, ma di amplificazione è poca ce l'è. Vabbè, che burietta di gà. Quando è alzato sì. E pensavo che amplificava anche a metà. Ma poco, è una cosa che risulta. Ho capito. Perché mi dicevano sempre si sente questo, si sente quello, e allora già baciato a me dai. Il macchinino c'è, vedete? Ah, c'avevo anche il macchinino chiuso, vaffanguardo. Cioè, scommetto che amplifica adesso. Io lo credo. Amplificato adesso. E io? E il macchinino c'avevo a metà anche. Ma lo regoli dal macchinino o lo regoli dal microfono? Cari, mettilo al massimo il macchinino, il microfono ti regoli il volume. Adesso il macchinino è al massimo. Ah, deve essere che l'ho toccato io, capito là, l'ho toccato io e l'ho messo a metà. Ecco perché mi sembrava strano che non amplificava. Beh, io ti dico le cose come ti so, cari, è chiara la radio, era chiara, però... amplificazione non è sentito. E a chi vi la macchina mi dai, magari pulendo qua e facendo è stato toccato, io manco accorto, me ne sono a mai da cantumina a tutti, manco una baiti. Oh, io c'avevo delle batterie di microfoni tutte scariche, non ho potuto cambiare una, adesso devo comprare l'altra, ma io mi ricordo che ne avevo comprato due e una l'ho messa da una parte, non mi ha messo di raggio in borsa. E fa, Catta, in domenica me li hanno consegnati i PL. In domenica? Eia, in domenica me li hanno consegnati. Sto aspettando, mi deve arrivare ancora il tasto telegrafico che me l'ho ordinato. Però dice che era in ferie e spediva il giorno 13. Vabbè, mi arriverà. L'altra lì. Ma di Amazon era. Eia, in domenica hanno consegnato. Ce li ho qua i PL, 12 PL mi ho ordinato, in bacchetta, belli col riduttore, anche per il RG58 vanno bene. Invece io ho ordinato il mangime per i lui e mi è arrivato ieri. Però la scatola era tutta grande e fasciata, tutta messa male, meno male che è dentro di plastica e di plastica dura il contenitore da 3 kg, però se fosse stata un'altra roba si sarebbe sfasciata, era tutta grande puzza male. Era la porta, il postino, il pollice, solo il postino. Ma cazzo, quando mai si può a lanciarla la roba, boh. Cazzo. Io dico duro, baghissimi, se tu compri qualcosa magari la lanciano, cazzo, ti arriva danneggiata. È quello il mangime, non costa poco, se si apre roba del genere non perdono, 40 euro costa, non costa poco. A Sassari non si può comprare, voleva 48 euro, ho detto sì, te ne dico. Infatti. Ma che vuoi che ti dica? Cosa volerà? Non lo so, perché mi sta guardando fisso, vuol dire che vuole qualcosa. L'altro giorno quando sono andato al corso gli ho comprato un pacco di biscottini. Più canarino ancora c'è. È sempre quello lì. Cioè, non il biglio femmina, lo sa che mi dà macchia. E adesso andrà sulla cazzo. sino a campo, quando loro si rugavano e buraetto. No, che tu canta! Fogga roba, prima cantava benissimo, un concerto faceva, ma deve essere quando c'era la femmina che cantava. E allora? I miei adesso hanno due figli, sono diventati già grandi, stanno già mangiando su, gli ha già fatto un altro uovo. Cazzo, uno dopo l'altro ne va. Ma quale, i lori o gli altri? Ma la calopsite, i lori ancora non, sessualmente non sono pronti, dopo due anni. Ah, cappa, io sì, sono belli. Solo che una gabbia manna, se no mi rapio biliardi. Chi si chiama i biliardi, ne ho? E quelli c'è partenza e... pazienza li prendi, li fai giocare, li fai uscire dalla gabbia, li fai come ho fatto io, che da dove si catti mi salgono sulle spalle, in testa, da tutte le parti. Quelli li parlano pure, parlano, fanno le musichette, da me cantano la familiare, se fischiano. Così fanno. Poi dicono aio vieni, aiuto, perché io dico aio vieni Romeo, vieni in gabbia. E mi dico aio vieni, ciao. Che bello che è che io ancora, cioè adesso un po' non li sto appresso molto perché ho da fare cose, ma prima che li stavo appresso li liberavo anche di sera oltre che di mattina, giocavano con noi con la pallina, oh, se ti riposto vedi qua, a me infatti si facevano con noi. Io me lo posso immaginare. Si butta la pancia all'aria, oh, giocano tra di loro, devi vedere cosa tutto fanno. Poi quando sono in vena che c'è già uno specchio e giocano con questo specchio che c'ha la campana attaccata, quando sono in vena che stanno giocando lì cominciano a parlare e a cantare. Perché si vedono loro lì e magari pensano che sia una truba a pagare. Stavo provando a segnare la vecchia fattoria, ma non ce l'ho fatta ancora, ma magari qualche giorno si salta lo scrivibile e la cantano, perché quando io la canto stanno bloccati e mi guardano, capito? Bloccati proprio. E lì stanno imparando quando ti guardano così. Poi c'è l'ultimo che ho preso, quello che avevo preso perché ti ricordi che me l'ha fuggito uno e per non lasciare solo a quello ne ho preso un altro, adesso ne ho due maschi e una femmina, però il maschio, l'altro, l'ultimo che ho preso, l'ho lasciato solo in una gabbia perché lo picchiavano, perché loro sono già una coppia fatta, capito? E praticamente quello lì dentro la mano, ho detto si mette a giocare con me, lo accarezzo, faccio tutto qua. Solo che è solo poverino, perché lo picchiano intanto, che sono territoriali tutti noi. Tali la mattina li libero un'ora, li libero tutti e tre insieme. E lo seguono, capito? Anche quando è libero lo seguono per beccare. Perché sono territoriali, non uno. Capito? E sai cosa fanno? Io apro tutte le gabbie, no, perché poi le pulisco tutte in aceto e acqua, le disinfetto sempre tutte le mattine, perché sono rischiosi i batteri, questa roba qua, quindi vogliono lavate così. E fatto sta che cosa fanno? Quelli della gabbia grande, tutti e due vanno nella gabbia di Marli, e Marli va nella gabbia loro, e si invertono le gabbie. Ma si raccappano in mira gabbia di roba di giusta. Perché sono territoriali, puzzinosi, non lo vogliono, no. Che sono già una coppia fatta e quindi a quello lì, poverino, non lo vogliono. Infatti così. Ma spiega che se trovo qualche filmato dove quando giocavamo te lo fatelo. Sì, mandalo dove stai. Callarino. Guardate, non mi ha dato un po' Atari. Già le ho viste le fotografie, guarda che belle che sono. Adesso... ci vuoi immaginare, guarda là. Ci sono, non sono fotografie, sono filmati. E capito Atari, sono filmati. Filmati sono. Che c'ha vedere? No. No, fotografie sono... già. Aspetta che controllo. C'è la fotografia di Tyson con gli occhiali pure. Sì, queste sono foto, ragione. Oh, il filmato te l'ho mandato, giocando. Non è arrivato ancora. C'è la fotografia di Tyson. No, sta caricando. È grosso, è un po' grosso questo, che non so se ce la fa. Sì, non arriverà. Con gli occhiali e col cappello, ti immaginai? Eccolo! Non è arrivato qua ancora. A me dici di sì. Adesso lo riapro a vedere. Non era arrivato. Oh, via. Nuda. Mi illumini, forse è arrivato. No. No, non è arrivato. Allora, qua Natale, io sono sul tuo profilo e c'è il video come è arrivato. Boh, è strano, eh? Non è arrivato, non già. Aspetta, adesso lo richiudo e vediamo un po' se arrivi. Cosa vuoi ti dire? È strano, perché qua io sono sul tuo profilo dove ti ho mandato tutta la roba, e tutta la roba che ti ho mandato c'è anche questo video. Ma, mo vediamo. Lui da foto dice. Dillo mi, arrivato adesso. Vediamo. Sta caricando. Sì, adesso è arrivato il video. Forse non ce la fa il telefono a caricare. Dillo mi, lo sto guardando. Ah vai, dalla data. Si è messo a panciallare. Ehi, a simpatia di lui. E non provo di giugiole quando gioco. È bello, guarda, qui. Io li metto anche da bere perché ogni tanto vanno e bevono, capito? Ma che bello, ma... Ah, ma così cazzo, guarda che non è capace di riuscire a entrare. Ma vi piace la Concetta? Non c'è Concetta che è in cucina. E questa voce di donna chi era, la madre? La tua compagna era. Ho capito, no, pensavo che ti avessi portato che facessi come fa Pupo, che c'ha due donne. Scappa, salutami anche l'altra signora, dai. Non volevo. È in cucina, avanti su nuda. Comunque te l'ho fatto vedere come gioca, tutto saperli, allora a me che me li hanno portati che erano selvatici, non faceva avvicinarsi a me alla gabbia perché si sbattevano da una parte all'altra, guarda come sono diventati adesso. Aspetta. Ma selvatici, se ti avvicinavi tutto ti beccavo, però non bisogna forzarli, capito? Bisogna farli fare quello che vogliono, tu li avvicini il dito e loro prima ti odorano, ti fanno, poi ti salgono da soli, piano piano, poi vanno sulle spalle, capito? Tutto con gradatamente, devi avere un po' di pazienza. Lo so. Guardando che sta. Fammi sapere se gli piace la Concetta. Sì, bellissimo. Ha detto sì, sono bellissimo. Hai visto che colori che c'ha? Sono tra i pappagalli più colorati che esistono. Anche Lara è bello, però Lara parla poco. Aspetta, gli faccio vedere una cosa a Concetta, guarda. Chi è questa? Crubara cadute. Cacira. Chi è? Concetta, ma conosci a Tyson. Oh, Natale, io ti saluto, dai, vado a fare da mangiare a Tyson, se no quello torna da giù e non si troverà papà pronta. Ci sentiamo, buona serata, dai. Salutami Concetta. Ciao, ciao. Ciao, altrettanto, grazie per le quattro chiacchiere. Saluto anche a Claudio, se in ascolto. Me ne faccio anche in quel recitato. Ciao anche a Claudio, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao, ragazzi. Wow.